Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di welfare in azienda, imprese smart e benessere dei lavoratori. Un libro scritto da Luca Pesenti. Buonasera Luca Pesenti. Buonasera, buonasera. Luca Pesenti, ricercatore di sociologia generale della Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di Milano, e ha seguito, segue i temi appunto della socialità, dell'esclusione sociale, del welfare, ed è direttore di ricerca dell'Osservatorio Donazione Farmaci presso la Fondazione Banco Farmaceutico. Ha scritto altri libri sulle politiche sociali e la sussidiarietà, sulla povertà, sugli aiuti alimentari e così via. Ora un libro dedicato al welfare in azienda, una realtà che sta prendendo piede, che sta facendo passi avanti, anche per ci sono delle previsioni di carattere, di agevolazioni di carattere fiscale, ma non solo per questo. Allora, perché parlare di welfare in azienda adesso, Luca Pesenti? Non solo per questo, io direi non innanzitutto per questo, e anzi i casi in cui il welfare in azienda funziona sono casi in cui diciamo il primo motore non è il beneficio fiscale che lo Stato riconosce a partire dalla legge di stabilità del 2016, ma è un motore diverso, cioè un motore di incorporazione all'interno dell'azienda di una cultura del valore condiviso che fa premio innanzitutto su una nuova cultura della gestione delle risorse umane, in cui come dire, la possibilità di trasformare una parte o tutto il premio di risultato in welfare aziendale, quindi in benefit che servono alla vita delle persone, sembra rappresentare un motore potente per aumentare l'engagement, diciamo così, dei lavoratori, per migliorare il clima aziendale, per migliorare la capacità di attrazione delle aziende dei talenti. Ecco, in questa prospettiva, quando si parla di welfare aziendale si pensa un po' alla mensa, all'asilo nido, agli aiuti alle persone per le visite mediche, per la salute e così via, tutte iniziative ovviamente utili, iniziative che hanno avuto in fondo in Adriano Olivetti, uno degli antesignani. L'azienda Olivetti negli anni 50 e 60 era vista come un'azienda modello proprio per il suo legame con le persone e con il territorio, e invece il suo libro inizia proprio dicendo dimenticare Olivetti. Come mai? È una partenza provocatoria per dire che non siamo più in quel modello un po' paternalistico dal punto di vista di chi lo criticava e, diciamo così, dell'imprenditore illuminato dal punto di vista di chi lo ha sempre sostenuto, proprio per quello che è un po' detto prima, cioè siamo fuori ormai nelle pratiche concrete dalla logica dell'imprenditore che dall'alto si occupa del benessere dei propri lavoratori per motivi di varia natura, umanitario o quant'altro. Siamo tutto dentro a una nuova stagione in cui appunto il welfare aziendale in tutti i sensi strategia d'impresa. Dimenticare Olivetti non significa naturalmente, come dire, buttare a mano, certo, la eredità che è stata fondamentale, ma semplicemente dire che siamo in una nuova stagione. Cioè fare dei passi avanti. Ma in questa prospettiva quanto pesa il fatto che lo Stato fa sempre più fatica a garantire certi servizi, certe condizioni, certi, soprattutto sul fronte, per esempio, dell'assistenza sanitaria, le code e le liste d'attesa si prolungano notevolmente? Ecco, avere delle possibilità alternative può essere utile. È in fondo questo il welfare aziendale una risposta all'inefficienza dello Stato? Sì, non può essere la risposta, è una risposta integrativa. Sicuramente lo Stato, aumentando i benefici previsti dal punto di vista fiscale, tenta di agevolare, tenta di sviluppare fortemente questo pilastro, diciamo così, integrativo. Non possiamo naturalmente pensare che possa sostituirlo, perché le dimensioni finanziarie, diciamo così, dei due pilastri sono incommensurabili, ma non c'è dubbio che stiamo andando verso un welfare mix in cui non è più soltanto, come è stato tradizionalmente, il terzo settore, le fondazioni, eccetera, che aggiungono elementi a uno Stato che zoppica, ma a questo punto entra fortemente anche il ruolo del privato profit, e quindi in qualche modo il nostro modello si arricchisce e a un certo punto di vista naturalmente si complica, perché il welfare aziendale per definizione non è universalistico, è particolaristico, non è per tutti, è per alcuni, e quindi, come dire, il futuro sarà anche cercare di capire come risolvere queste forme di diseguaglianza che naturalmente il welfare aziendale genera. Ecco, in questa prospettiva la realtà delle imprese italiane è una realtà di piccole e medie dimensioni, soprattutto di piccole dimensioni. Ecco, le piccole aziende difficilmente possono attuare delle strategie di welfare aziendale, o non è vero? Difficilmente possono farlo se stanno da sole. Diciamo, i casi sono molto rari, più probabile che le aziende decidano di mettersi insieme sfruttando modalità come ad esempio il contratto di rete, che in Italia è una formula, come dire, che sta prendendo piede da alcuni anni e su cui anche la Confindustria nazionale sta scommettendo. I contratti di rete per il welfare sono ancora pochi, ma questa potrebbe essere una soluzione per il futuro. Aziende piccole che si mettono insieme a quelle medie e quelle grandi per costruire cluster di imprese che fanno del welfare aziendale un elemento che li accomuna e gli fa costruire delle strategie insieme, un po' come le aziende che si mettono a fare ricerca e sviluppo insieme, per esempio. Certo. Ecco, nel libro ci sono alcuni punti chiave: guardare alle esigenze dei dipendenti, dei lavoratori, creare appunto questa rete di imprese, ma c'è anche un punto chiave che è il ruolo del sindacato. Come vede il sindacato il welfare aziendale? Chiave, perché peraltro la normativa prevede ampi benefici, in particolare per chi contratta e quindi per chi fa relazione industriale di secondo livello, a livello aziendale o territoriale. Il sindacato su questo è sfidato fortemente, è una sfida un po' per tutti, per il sindacato in particolare, perché su questo tema si gioca un pezzo della propria, non so se credibilità, ma sicuramente del proprio futuro, nel senso che non tutti i sindacati sono pronti a fare questo salto di qualità, non tutti i sindacati sono pronti al contratto di secondo livello, quindi allo spostamento dal centro all'azienda di almeno una parte delle dinamiche delle azioni industriali, e non tutto il sindacato è disponibile a vedere il welfare aziendale come una componente importante e di apertura verso nuovi scenari. C'è invece un altro sindacato che su questa partita ha deciso di giocare fino in fondo, e quindi insomma sarà anche interessante vedere anche questa competizione interna al sindacato dove porterà anche su questo tema. Anche perché appunto la prospettiva del welfare aziendale è anche una prospettiva di collaborazione in fondo tra aziende e dipendenti, che contraddice un po' quella visione dello scontro, non dico della lotta di classe, comunque del confronto che è alla base anche di molte logiche sindacali. È in questa prospettiva forse che anche i contratti appunto di secondo livello, i contratti aziendali, giocano la loro parte, Luca Pesenti. Non c'è dubbio, qui si giocano storie, culture, ideologie evidentemente del sindacato delle relazioni industriali. Quanto più il sindacato saprà farsi parte dei destini delle imprese, riducendo la conflittualità tra capitale e lavoro di novecentesca tradizione, e quanto più il sindacato potrà partecipare alla costruzione di questo modello di welfare aziendale, che altrimenti rischia di vederli tagliati fuori, perché appunto oggi non c'è più soltanto il sindacato, oggi ci sono soggetti intermediari come i provider di servizi e altri soggetti che forniscono alle aziende un servizio completo, dall'analisi dei bisogni alla valutazione. E se il sindacato non è dentro questo livello, in qualche modo il provider lo sostituisce in alcuni momenti chiavi di rapporto con i lavoratori, e quindi questa è una sfida molto grande. Certo, si parla nel libro di aziende smart. Ecco, andando verso la conclusione, che cosa si intende per un'azienda smart, anche in una logica di welfare aziendale? Luca Pesenti. Smart lo usiamo col termine agile, ma lo possiamo utilizzare anche col termine intelligente. Un'azienda intelligente è un'azienda che, come dire, rende valore condiviso anche la propria capacità di occuparsi di alcune esigenze fondamentali dei lavoratori, e al tempo stesso è intelligente quel lavoratore che, come dire, può andare alla ricerca non soltanto dello stipendio, ma anche del buon posto di lavoro che gli garantisca anche dei benefici di questo tipo. È la sfida del futuro. Sì, così come la sfida è anche quella appunto del futuro, nel futuro ma anche nel presente direi, di far sì che questa innovazione tecnologica che sempre più a massicce dosi entra nell'azienda possa non sacrificare il ruolo del lavoratore ma continui a rendere il lavoratore qualcosa di invece sempre più responsabile e sempre più in fondo creativo all'interno dell'impresa. E anche questa logica appunto di un lavoratore che non è al servizio delle macchine ma le macchine al servizio del lavoratore, che potrebbe far parte di questa logica del welfare aziendale, Luca Presenti? Sicuramente sì, io in alcune riflessioni attorno all'industria 4.0 e quindi alla robotizzazione dei processi produttivi ho trovato collegata proprio la questione del welfare aziendale, quindi sicuramente, come dire, welfare 4.0, l'industria 4.0 rappresenta una grande sfida, i catastrofisti ci vedono un pezzo della fine del lavoro, i realisti ci vedono una delle tante rivoluzioni che hanno, come dire, comportato perdite di lavoro iniziale ma recupero poi di lavoro nel medio termine. Sicuramente il capitale umano per l'impresa diventerà ancora più rilevante in questa industria 4.0 e quindi, come dire, la logica è che questo capitale umano sia trattato bene dalle aziende, aggiungendogli anche quindi questi elementi oltre alla dimensione salariale classica. Certo, grazie mille a Luca Presenti di essere stato con noi per presentare il suo libro Il welfare in azienda, imprese smart e benessere dei lavoratori, un libro edito da Vita e Pensiero, sono 120 pagine per 12 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. grazie e buona domenica a tutti.